Torniamo a parlare di garofano verde, torniamo a parlarne con Rodolfo Di Gianmarco. Intanto ben ritrovato. Grazie, ben trovati anche voi a questa notizia sulla nostra 24esima edizione della rassegna. Diciamo che siamo sempre in un arco di calendario di 3 giorni, quindi il minimo indispensabile, ma ce la mettiamo tutta. Abbiamo l'unico aiuto che va sempre citato, dello Spazio Teatro India, che ci mette a disposizione Antonio Calvi, direttore del Teatro di Roma, e poi cerchiamo di avere qualche idea per 3 serate differenti dal solito. Quest'anno le 3 serate hanno a che fare non con la drammaturgia vera e propria, tranne una piccola eccezione, ma sulla scrittura poetica, sulla scrittura che io definirei proprio poetica, di più autori, per cui non so, si comincia con Pier Vittorio Tondelli giovedì sera con i suoi biglietti agli amici. Io sono sempre stato infervorato da quei capitoli brevi, quelle cartoline, quei biglietti che lui spediva a persone evidentemente a lui care, e proprio c'è questo volumetto che ha contenuto 24 scritti, uno per ogni ora del giorno, e così questi biglietti agli amici sono anche un po' come dire, una dedica della intimità, della riflessione la più personale di Pier Vittorio Tondelli, e anche la più sintetica, che metteva in luce le doti di persone che lui stimava o amava e che magari sono sfuggite di mano, ma che erano in ogni caso poi le destinatarie di questi biglietti. Bene, se ne occupa Massimiliano Civica, che per me è un teatrante pieno di sensibilità, insieme al giovane Carmelo Allù, e questo micro epistolario quindi avrà luogo e avrà voce al Teatro India giovedì sera. La seconda serata è intitolata Santa Rita and the Spiders from Mars, e la dice già lunga il titolo. Da una parte Santa Rita è un richiamo a Paolo Poli, e The Spiders from Mars è altrettanto un richiamo a David Bowie, e infatti è un reading tra David Bowie e Paolo Poli. Mi sono intestardito sulla possibilità di mettere su 2 binari paralleli i testi, alcuni testi più o meno già noti di Paolo Poli, e in italiano, tradotti in italiano, testi di David Bowie. Beh, sono stati tutto sommato 2 personaggi, 2 protagonisti che sull'identità, sul maschile e femminile, hanno lavorato con una genialità infinita, in campi diversi, con pubblici diversi, però poi il caso ha voluto che ci lasciassero quasi nello stesso momento. Allora si occupa Marco Cavalcoli, Marco Cavalcoli del gruppo Fanny e Alexander, di dar voce a queste 2 persone, personalità, in una sorta di ristrutturato studio radiofonico, dove appunto quello che importa sono le partiture verbali, un microfono e dei testi, e che piano piano potrebbero anche non essere del tutto più riconoscibili e distinguibili se sono di Paolo Poli o di David Bowie. Questa è la seconda serata. La terza serata, per la terza serata abbiamo un poeta che legge se stesso, Enzo Moscato, grande per me personaggio intellettuale imprestato da sempre al teatro, alla scena, che in omaggio proprio al Garofano Verde riprende dopo 30 anni, dico 30 anni perché Occhi gettati, il testo che lui ripropone è del 1986 e lui non l'ha mai più toccato dall'esordio, quindi incuriosisce il ritorno di un artista a se stesso, alla scrittura di se stesso di 30 anni prima, ecco, e lui testimonia ovviamente il tragico, il grottesco, il surreale e tutto ciò che è intrigante nella, come dire, nel vocio, nella dialettica, se non che nel dialetto appunto napoletano, che però è sapientissimo, pieno di suoni eccetera, e di questi occhi gettati. Questi sono i tre capitoli. Avremmo un'unica eccezione drammaturgica di un giovane, ma molto giovane, che ha vinto un premio, si chiama Premio Inedito Colline di Torino. Lui si chiama Simone Carella ed è sinonimo Simone Carella, di altro nome di uno storico personaggio che ci ha lasciati. E il giovane Simone Carella ha Artemi, questo testo scritto su due ragazzi ex innamorati che si riconoscono e si reincontrano dopo molto tempo, e qui ci sono proprio due attori, c'è proprio una regia, e questa cosa verrà presentata prima della prima serata, come a dire, la prima serata ha due momenti e il primo momento è questo di questo giovanissimo. Questo è quello che fa il Garofano Verde. Senti, ecco, quello di Simone Carella che durata è? Un corto? Quello di Simone Carella è un atto unico di un'ora o poco, okay, meno, okay. E quindi comincerà alle 8 di sera di giovedì e darà modo alle 9 o poco dopo le 9 di iniziare ai biglietti agli amici di Tondelli, ad opera di Massimiliano Civica. Ecco. Questo è quello che abbiamo potuto e quello che vorremmo tanto che un po' incuriosisse, perché se c'è curiosità per questa nostra cultura, che è legittima, e io dico ma sempre in cerca di legittimazione, va bene, abbiamo ottenuto il nostro obiettivo. Bene, allora ricordiamolo, 24esima edizione della rassegna Garofano Verde, scenari di teatro omosessuale, dal 28 al 30 settembre prossimi al Teatro India. Rodolfo, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie mille a tutti voi e grazie dell'attenzione. Ciao, a presto. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.